Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: come si fa a non parlare di nuovo di auto? Già i nostri GR24 vi hanno raccontato la battuta, ormai la facciamo, l'affare si ingrossa, ma qua si sta esplodendo, nel senso che Fiat adesso fa prezzo, perde il 4,80%, ma era stata anche sospesa dalle contrattazioni, non perché ci sia, per quello che sappiamo, una notizia specifica su Fiat. Vanno malissimo tutti i titoli auto, adesso perde il 4,70%, ha fatto comunque fatica a rientrare dopo la sospensione in borsa. Che cosa è successo? Beh, insomma, da dove partiamo? Partiamo dal fatto che, come ricordavano i nostri GR24, anche il marchio Audi sia stato coinvolto. 2 milioni e 100 mila auto nel mondo sarebbero dotate del software incriminato, quindi gran parte dei modelli Audi, 1 milione e 400 mila nella sola Europa occidentale, di cui 600 mila nella sola Germania. L'ha detto il portavoce dell'Audi stessa, Jürgen De Greve, ha detto: i modelli coinvolti sono A1, A3, A4, A5, A6, TT, poi la TT, la Q3 e la Q5. Boh, forse manca qualcosa, ma praticamente abbiamo fatto la gamma dei modelli. Nel frattempo, in Germania, i giudici della Bassa Sassonia, che è l'under per inciso che ha il 20% del secondo azionista di Volkswagen, i giudici della Bassa Sassonia hanno aperto un'indagine sull'ex numero uno di Volkswagen, Martin Winterkorn, che si è preso 60 milioni di euro per, aggiungo io la battuta, distruggere il gruppo, però hanno aperto un'indagine proprio su di lui. Nel frattempo, sempre Volkswagen avrebbe sospeso i responsabili della ricerca e sviluppo sia di Audi che di Porsche che della Volkswagen stessa. Era emerso infatti nei giorni scorsi che i test sulle emissioni truccate negli Stati Uniti venivano gestiti direttamente dalla casa madre in Germania. E addirittura poi interviene anche, molti vi fanno notare che non è mai intervenuto in questi giorni Schäuble, ho capito, non è mai intervenuto Schäuble, il falco ministro delle finanze tedesco, però è intervenuto pesantemente il ministro ai trasporti tedesco. Oggi è tornato dicendo che Berlino non era a conoscenza dei trucchi sul software, e poi invece preoccupato il viceministro dell'economia Hans Spahn, che ha detto: l'industria automobilistica è fondamentale, il Dieselgate può avere un grosso impatto sull'economia e questo un po' ci preoccupa. Poi il capo dello staff della cancelliera Angela Merkel, Peter Altmaier, ha detto: credo ancora nell'elevata qualità delle auto prodotte in Germania. In effetti, diciamola tutta, nessuno mette in discussione la qualità delle auto prodotte dei marchi citati. Il problema è intanto di corrispondenza con le norme di legge sulle emissioni. E dall'altro, no, mi scrive un ascoltatore: la tua A8 Barisoni è a posto? No, non ce l'ho A8. È vero che manca la Q7 e la R8, capito? Detto questo, qui nessuno mette in discussione la affidabilità di queste auto. Non è un problema come hanno avuto altre case automobilistiche di affidabilità della parte meccanica o elettronica stessa. Il problema è di aver mentito sulle emissioni, che sono obblighi di legge fissati dalla legge. Ecco perché la class action, io non dico che si faccia sempre più certa, ma intanto è certa negli Stati Uniti, dove è partita la prima class action, quindi causa collettiva contro la Volkswagen, un fondo pensionistico del Michigan. Dicono di aver pagato il fondo pensionistico e i suoi investitori prezzi artificialmente gonfiati per investire in Volkswagen, visti i livelli di emissione dei gas di scarico manipolati, di aver perso così centinaia di milioni di dollari. Sempre dall'America giunge voce di 80 altre class action pronte da parte dei consumatori. In Italia il ministro Delrio ha detto: è possibile, non si può prevedere, ma è certamente possibile, l'ho detto all'inaugurazione del CERSAI, di cui parleremo più avanti, e attendiamo comunque i dati della Germania. E poi in Spagna un sindacalista spagnolo, Manos Limpias, cioè un sindacato, scusatemi, spagnolo, Manos Limpias vuol dire mani pulite, ha denunciato Volkswagen per frode. Parleremo anche di questo, parleremo anche invece di una cosa che riguarda espressamente l'Italia, e cioè il fatto che la Commissione Europea abbia fatto sapere che la nostra manovra sulle tasse, così com'è, proprio non le piace, nello specifico a 2 settimane dall'approvazione della legge di stabilità, che nelle intenzioni del governo porterà alla fine della tassa sulla prima casa, quindi TASI e IMU, vale circa 3 miliardi e 4 questa manovra. Bruxelles, dicevo, è tornata a premere sull'Italia dicendo: non dovete puntare su questo, dovete puntare sulla riduzione delle tasse sul lavoro. Dice Bruxelles, l'Italia, come molti altri Stati membri, ha un peso fiscale relativamente alto sul lavoro e ci sarebbe un margine per spostare il peso fiscale a imposte meno distorsive, come quella sui consumi, che si chiama IVA, la proprietà immobiliare e l'ambiente, quindi TASI e IMU. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. E adesso rapidamente le altre notizie in breve. Al di là dei titoli automobilistici, la borsa perde il 2,60%, Parigi il 2,70%, Francoforte il 2%, l'America l'1%, Londra meno 2,1%, euro a quota 1,12%. Da noi vanno male, oltre che appunto Fiat, anche alcuni bancari, nello specifico UbiBanca perde il 5,90% e il Monte dei Paschi di Siena che perde il 5,20%. Male anche Mediolanum, mi riferisco a un calo del 5,30% e Azimut meno 5,80%. C'è un timore oggi che sul risparmio gestito si apra una nuova fase di debolezza. Ancora tra i titoli segnalo Saipem meno 4,30, Estima Electronics meno 4,5, Unicredit meno 4,40, Pop Milano meno 4 come il Banco Popolare. Il 3,30 lo perde CNH Industrial, il 3,20 Unipolsai, il 3,15 Exor, il 3% Prismian e anche Enel Green Power. Oggi contiene i cali tutto il settore del lusso, Ferragamo perde l'1,5%, Campari l'1,70%, e tra l'altro su Campari c'è anche un'emissione obbligazionaria da 600 milioni di euro per sviluppi ulteriori dell'azienda. Moncler meno 1,80, World Duty Free meno 0,10%. Altre notizie, anche se ripeto oggi è molto molto si concentra su Volkswagen e la vicenda anche europea. Per quello che riguarda l'Italia, allora, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, intervenendo al Clinton Global Initiative, quindi incontro con gli imprenditori, oggi ne avrà un altro, se non ricordo male, alle 18, ora però newyorkese, dicevo, quindi mezzanotte ora italiana, ha detto il Premier: se l'Italia nei prossimi 10 anni compie le riforme strutturali che servono, diventa leader dell'Europa più della Germania. Adesso, insomma, è vero che la Germania ha lo scandalo Volkswagen, però ne sono assolutamente convinto, ha aggiunto Matteo Renzi. Un anno fa a New York ho presentato agli investitori la lista delle cose da fare, ora potrò dire loro che il 90% di quelle cose sono state attuate, ora che gli investitori tornino in Italia, come d'altra parte da qualche tempo sta già avvenendo. Ora, che il governo abbia avviato una stagione di riforme non sta a me dirlo, che siano state attuate il 90% di quanto promesso non abbiamo modo per verificarlo, però faccio notare che la riforma della pubblica amministrazione è di là da venire, riforma importantissima, che la spending review con la riforma anche delle centrali d'acquisto, delle partecipate agli enti locali è di là da venire, per cui insomma il Jobs Act è stato fatto, piaccia o non piaccia, questo non è un giudizio di valore, però dire che il 90% è stato fatto. Comunque, Matteo Renzi da New York. l'Italia non è più percepita come il problema dell'Europa, il problema del mondo. L'Italia è percepita come un grande paese, lo ha detto proprio Soros qualche giorno fa in un'intervista, che può essere il paese guida in Europa, e credo che questo sia il punto fondamentale. La comunità che vediamo da Bloomberg è una delle comunità dei principali investitori americani. Un anno fa li avevo incontrati, gli avevo fatto l'elenco della lista delle cose che volevo fare, che volevamo fare. Adesso sono molto contento che questa lista è al 90% già realizzata. Naturalmente va implementata, migliorata, e adesso c'è bisogno che gli investitori di tutto il mondo tornino a credere nell'Italia, come del resto già sta avvenendo da qualche mese. Grazie. Parleremo anche, me lo chiedono gli ascoltatori, di Cimoli. Ve lo ricordate Cimoli? Giancarlo Cimoli? Noi ci permettemmo di contestare non la legittimità a suo tempo, ma il merito della mega liquidazione che percepì sia per le Ferrovie dello Stato che per l'Alitalia. Nel senso che nel periodo in cui fu amministratore delegato dell'Italia, dal 2004 al 2007, accumulò perdite all'Italia per 4 miliardi di euro. E però quando Cimoli lasciò l'Alitalia si prese 3 milioni di euro di liquidazione. Andamento analogo alle Ferrovie dello Stato, prima, dopo di lui arrivò Moretti, ma quando lasciò Cimoli si prese una liquidazione di 6 milioni e 700 mila euro. Quindi diciamo, lo Stato italiano ha pagato a un manager che ha gestito in maniera, diciamo, sicuramente non brillante, anche perché adesso vedremo le accuse, ma quanto conto economico, ha pagato quasi 10 milioni di euro dei contribuenti. Ora, la sentenza di primo grado riguarda il crack del 2008 di Alitalia. Tra i fatti contestati anche una consulenza McKinsey pagata 50 milioni di euro e l'assunzione di 135 piloti per pilotare 5 cargo. Insomma, praticamente erano quasi 30 piloti a cargo. Forse per questo che erano un cargo, perché doveva tenere i piloti, non lo so. Ma che cosa è successo? 4 condanne e 3 assoluzioni. Si è concluso così il processo per il crack della vecchia Alitalia nella gestione 2001-2007. Condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione Giancarlo Cimoli, disposti anche i risarcimenti milionari. Condannati a 6 anni e 6 mesi Pierluigi Ceschia, ex responsabile del settore finanza straordinaria, a 6 anni Gabriele Spazzadeschi, già direttore generale del settore amministrazione e finanza, a 5 anni Francesco Mengozzi, amministratore legato dal febbraio 2001 al febbraio 2004, tutti accusati di bancarotta. A Cimoli vengono contestati anche 2 episodi di aggiotaggio per la diffusione di notizie false e idonee a provocare una sensibile alterazione del valore del titolo d'Italia in borsa. I risarcimenti: solo Cimoli deve risarcirne 160 di milioni di euro. Io non vorrei che, come sempre in questo paese, la si sparasse grossa. E complessivamente dovranno risarcire le parti civili per 355 milioni di euro. Parleremo dopo di questo. Intanto partiamo con una buona notizia, perché al di là di tutti, come uno possa pensare, oggi l'Istat fotografa una fiducia dei consumatori italiani e delle imprese. Le misure da ogni mese, fiducia dei consumatori e fiducia delle imprese. Dicevo, ai massimi come punteggio dal praticamente 13 anni a questa parte. Ora so già che inizieranno gli sms, le contestazioni, questa è l'Italia che non c'è, che vedete solo voi, l'Italia di Renzi. Oh, è l'Istat, la raccontiamo quando dice che la fiducia ha raggiunto i minimi e la raccontiamo anche quando dice che la fiducia ha raggiunto i massimi. Quella delle imprese ai massimi come punteggio, 106 punti dal novembre 2007. Quella dei consumatori è il livello più alto dal marzo del 2002, ha toccato infatti i 112,7 punti. Questi dati li ha commentati a margine dell'inaugurazione del CERSAI a Bologna, di cui adesso ci occupiamo perché abbiamo i nostri studi e anche il nostro collegamento da lì, e dicevo con il nostro Nazareno Orlandi, li ha commentati il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio.

fare le riforme è il secondo dato più positivo, speriamo diventino sempre di più. Io ritengo che il nostro paese con un po' di riforme può ritornare ad essere quel paese di avanguardia che è stato per diversi decenni nel dopoguerra. La fiducia sta sicuramente tornando, purtroppo il CSI, se vogliamo parlare di mercato interno, si rivolge ad un settore che è quello più forse penalizzato in questo momento, perché l'edilizia è veramente drammaticamente calata nel nostro paese, l'attività edilizia. Tra l'altro, come Confindustria e ANCE, proprio settimana scorsa abbiamo sottoscritto un accordo su un documento che abbiamo sottomesso al Primo Ministro per un rilancio dell'edilizia nel nostro paese. E poi anche dall'industria metalmeccanica, che ripetono delle 4A del Made in Italy, arrivano segnali positivi, anche se ampiamente sotto i livelli del 2008. Oggi lo ha confermato l'indagine congiunturale di Federmeccanica sul comparto: nei primi 6 mesi dell'anno i volumi di produzione dell'industria metalmeccanica sono cresciuti in media dell'1,8%, però sottolineano i vertici di Federmeccanica la ripresa è flebile e non risulta ancora diffusa a tutte le attività del settore. Il vicepresidente Alberto Dal Pozzo: siamo senza dubbio in una fase di moderata ripresa, ma questa moderata ripresa sta toccando il settore metalmeccanico in modo assolutamente difforme da settore a settore. E il settore delle automobili stava andando piuttosto bene, e il settore legato alla metallurgia o alla metalmeccanica connessa con il mondo delle costruzioni sta andando invece ancora peggio rispetto al 2014. Questo soprattutto perché il mercato interno continua a essere incerto, mentre invece tiene molto il nostro export. Esistono poi dei fattori che non sono assolutamente controllabili da noi, che però capitano e che in qualche modo stanno alterando pesantemente la percezione, la fiducia, in generale quello che a livello soggettivo gli imprenditori metalmeccanici percepiscono e allo stesso modo percepiscono i nostri operai, i nostri consumatori e così via. Quest'estate abbiamo avuto tutti i fenomeni legati ai corsi di borsa in Cina, da poco lo scandalo Volkswagen, che in qualche modo altera o comunque altererà le percezioni del mercato legato all'automotive. Il prossimo passaggio potrebbero essere legate alle commodity, quindi al valore delle materie prime a causa di un'importazione fuori controllo di materia prima dalla Cina. I just can't take my eyes, can't take my eyes off you. Allora, apprezzo due battute. Uno che mi scrive: mi sono perso la ripresa d'agosto, forse perché ero in ferie, e va bene. E l'altro che sulla vicina Volkswagen, scimmiottando quello che è il claim, la pubblicità Volkswagen Das Auto, scrive Volkswagen Gas Auto, e vabbè, anche questa l'avevamo vista. Adesso meteo, pubblicità e poi ci colleghiamo al CSI di Bologna, che è il più importante salone internazionale per l'architettura e l'arredo bagno, quindi coinvolge l'importantissimo distretto italiano della Piastrella, 872 espositori da 39 paesi, 320 aziende straniere. Si conclude il 2 ottobre dopo il meteo. Focus Economia. minuti, adesso vedo che ci sono dei flash d'agenzia. Il Premier Renzi ha parlato anche dell'Europa e sulle tasse, ha detto quali tasse ridurre le decidiamo noi. Vi arriviamo subito, però vorrei collegarmi appunto con il nostro Nazareno Orlandi a Bologna, negli studi di Radio 24 al CSI di Bologna. Buonasera Nazareno. Buonasera a te Sebastiano, buon pomeriggio, prima giornata di Cersaie, tutto il meglio del settore della ceramica per l'architettura e l'arredo bagno si è ritrovato a Bologna, questa è la 33esima edizione del Salone Internazionale, noi siamo all'interno dell'area fiera di Bologna, ricordiamo il salone rimarrà aperto fino a venerdì prossimo, quindi dalle 9 alle 19 questi gli orari, per chi vuole passare a trovarci lo stand di Radio 1 è posizionato poco dopo l'ingresso. Veramente è Radio 24. Più che Radio 1, Radio 24, va bene anche Radio 1, non so dove sia lo stand di Radio 1, ma va bene anche quello, noi siamo sportivi. Radio 24, ti sento ovviamente. Molto embedded, fammi fare una domanda, almeno così do anche un senso alla mia presenza in questa parte dello studio. Allora, il Cersaie ha 872 espositori in 39 paesi, di 39 paesi 320 aziende straniere. E di cui tra l'altro lo dico perché uno sottovaluta quanto pesi nell'industria italiana il settore dell'arredo, arredo bagno, ceramiche e piastrelle, 223 aziende produttrici per un totale di 26.000 occupati, fatturato complessivo di quasi 6 miliardi di cui il 75% che deriva dall'esportazione, cioè due terzi di quanto produciamo viene esportato, il giro d'affari di 5 miliardi di euro, è un più 4% per quello che riguarda solo le piastrelle, gli altri comparti pesano meno, pesano per 700 milioni di euro e l'export delle piastrelle ha toccato un nuovo record nel 2014, più 6% a 4 miliardi e 100, pensate, su 5 miliardi di giro d'affari 4 miliardi e 100 le abbiamo esportate, riuscendo a posizionarci Nazareno a un livello superiore a quello dei grandi concorrenti che sono sia cinesi ma anche spagnoli e turchi, non sono solo i cinesi in questo caso, che fanno piastrelle a costi molto molto più bassi. E lì lo sforzo dell'industria italiana è stato proprio di collocarsi nelle parti alte, non senza purtroppo morti e feriti. Che clima si sta respirando al Cersaie, Nazareno? Sebastiano, hai fatto ascoltare prima i dati sulla fiducia di consumatori e imprese, l'impressione che regni un certo ottimismo tra gli stand, gli ultimi dati del settore dicono che la ripresa è avviata, le esportazioni continuano a crescere, però fa ancora fatica il mercato interno, come ha ricordato il presidente Giorgio Squinzi. Comunque regna un certo ottimismo tra gli stand? Grande partecipazione, come dicevi tu, ci sono circa 900 stand da 39 paesi e 319 gli espositori stranieri, questo è un settore molto importante, un volume d'affari che supera i 5 miliardi di euro, in Italia ci sono più di 25.000 occupati, questo per dare un'idea di quanto sia cruciale il settore della ceramica, in particolare per il distretto di Sassuolo, ed è per questo che stamattina gli imprenditori hanno chiesto al ministro delle infrastrutture Delrio un impegno serio per la Bretella Sassuolo Campo Gagliano che aspettano da anni. Abbiamo sentito anche il presidente di Confindustria Ceramiche, Vittorio Borrelli, e ha fatto precise richieste al governo, ha reso noto gli ultimi dati, lo sentiamo. L'export andiamo abbastanza bene in Germania e Stati Uniti, dove cresciamo a due cifre, molto bene anche i paesi dell'area del Golfo, in generale l'Europa si è stabilizzata su dei livelli decenti e sta cercando di tornare a raggiungere i livelli pre-crisi. Quello invece che bisogna curare è il mercato italiano, perché per l'ennesimo trimestre dietro fila presenta un segno meno e bisognerà intervenire pesantemente, e qui anche il governo può fare la sua parte, soprattutto agendo sulla tassazione. Cosa manca ancora? Cosa chiedete appunto? Chiediamo una burocrazia più snella, chiediamo un fisco più leggero e chiediamo di essere tutelati maggiormente in Europa. Si apre oggi Cersaie, il Made in Italy si mostra? Frutto dell'investimento di tutto l'anno in nuovi prodotti, in nuove tecnologie, arriviamo a questa manifestazione veramente in gran forma, nei padiglioni all'interno degli stand di ogni azienda vedremo tantissime novità e siamo sicuri che le aziende italiane rappresentano ancora l'eccellenza e il punto di riferimento mondiale. Così appunto il presidente di Confindustria Ceramiche Vittorio Borrelli, ringrazio Nazareno Orlandi in collegamento dalla postazione di Radio 1, volevo dire Radio 24, così resto sul sulla gaffa di Nathaniel Orlandi. Dove andate? Scomparso, è andato, sta commettendo un suicidio. Eccomi, ma non c'è problema. Stavo ringraziando la postazione di Radio 1 bar Radio 24 lì al CSI di Bologna. Tra l'altro ci chiedete dove vanno le nostre piastrelle. Beh, c'è stato un incremento notevole. Orlandi, sei vivo? Sì, c'è stato un incremento notevole negli Stati Uniti, più 32,4%, 31,5% Spagna, 32,4% gli Stati Uniti, più 18% Danimarca, più 17% Svezia, più 15% Inghilterra, addirittura l'11% in più anche in Grecia. Sono riuscito a fare il nostro expo di piastrelle nei primi sei mesi di quest'anno, più 12% Olanda e più 6,5% Germania. I cali maggiori, come immaginabile, meno 45% Russia, e lì non ce n'è, e poi anche meno 12% Finlandia e un 6,5% in meno sulla Francia. Allora, ti riavremo ospite nei nostri GR o se no in quelli della RAI, vedremo, adesso decideremo. Intanto grazie a Nazareno Orlandi in collegamento con noi da Bologna, dal CERSAI. Andiamo subito sulla borsa. E si spiazza la regia, poi mette una campanella, cambia una base, come vuoi tu. Allora, meno 2,72% Milano, meno 2,76% Parigi, meno 2,12% Francoforte, meno 2,30% Londra, tutte in calo e anche significativo le borse europee. L'America meno 1,30% in questo momento sul Dow Jones, euro a quota 1,12 nei confronti del dollaro. Al di là della vicenda Fiat, perché avremo un approfondimento apposito chiaramente sulla vicenda che non è Fiat ma è Volkswagen, il titolo Fiat ha perso il 5%, difficoltà a fare prezzo in alcuni momenti della seduta, segnala una grossa debolezza oggi di molti bancari e anche del risparmio gestito. UbiBanca perde il 6,20%, Azimut il 6%, Mediolanum un meno 5,5%, Monte dei Paschi meno 5,30%, Unicredit meno 4,70%, Banco Popolare meno 4,20%, Pop Milano meno 3,80%. Ne parliamo dopo il traffico. Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta Focus Economia. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, al di là di Fiat e dei titoli automobilistici, come mai questi cali pesanti su risparmio gestito e anche alcune popolari, Banco Popolare meno 4,20, Pop Milano meno 3,70, oltre a quelle già citate, Eleonora? Ma il risparmio gestito si inizia veramente a temere che a questo punto il trend del mercato inizia ad essere assolutamente negativo, quindi evidentemente ne subiscono le conseguenze proprio i titoli delle società che hanno come business quello della gestione del risparmio. Sono inoltre andate male le banche, soprattutto MPS ha guidato i ribassi con un calo di oltre il 5%, e questo ha fatto sì che Piazza Affari alla fine abbia registrato una delle performance peggiori. Su questo devo dire che dato oggi è abbastanza inequivocabile, mentre il lusso oggi obiettivamente ha tenuto meglio del resto del mercato, perché World Duty Free meno 0,20, Yux meno 1,30, Moncler meno 1,40, Campari meno 1,70%, Luxottica meno 1,88%. E su Campari abbiamo anche notizie, prego. Onore. Sì, su Campari sì, ma al di là di questo, come hai detto tu, sui titoli del lusso hanno tenuto un po' di più, ad esempio Ferragamo meno 1,78, Tod's alla fine ha ceduto ma ha cercato di resistere fino al finale. Oggi si sono concluse le sfilate milanesi, dalle quali comunque sono emersi anche messaggi abbastanza incoraggianti. Ad esempio ieri l'amministratore delegato di Ferragamo ha cercato di gettare acqua sul fuoco sulla presenza della società in Cina, un paese che comunque continua a marciare. In particolare appunto l'amministratore delegato ha rilevato che sono aumentati di oltre il 12% i turisti cinesi nel mondo e in generale sono buoni acquirenti nelle boutique del lusso, e peraltro questo flusso è previsto in crescita. crescita. Stesso ragionamento è stato fatto nei giorni scorsi da Cucinelli, anche da Massimo Ferretti a capo di AF, anzi Ferretti ha detto che per il gruppo che controlla Moschino e Alberta Ferretti le vendite in Cina sono addirittura aumentate, e quindi da tali segnali positivi, poi dalla presenza folta di buyer da tutto il mondo, si sono tratti diciamo dei segnali incoraggianti per il comparto. Ancora tra i titoli, Eni un po' in calo nonostante l'annuncio della produzione, che la produzione del nuovo giacimento scoperto in Egitto, molto ne abbiamo parlato, potrebbe partire già nel 2017, Eni ha perso il 3%. Vorrei chiudere su Telecom, non ha perso più del mercato, ma 1,90, anche se ci si attendeva forse qualcosa in più dal CDA. Esatto, le notizie dal consiglio di amministrazione, che ricordiamo la scorsa settimana si è tenuta a Rio de Janeiro, non sono stati esaltanti per il mercato. La società ha confermato il piano di investimenti in Brasile, ha confermato inoltre che nonostante il rallentamento dell'economia brasiliana il Brasile rimane strategico, come è sempre stato sottolineato. L'unica novità è che è stato dato mandato a Marco Patuano, l'amministratore delegato del gruppo telefonico, di vendere di trovare la giusta valorizzazione di Inuit, e quindi questo è stato apprezzato dal mercato. Si aspettano a questo punto delle operazioni straordinarie all'orizzonte, e proprio per questo i titoli di Telecom alla fine hanno perso meno del mercato. Meno della media. BS meno 7%, Kinexia meno 6,80%, Banca Intermobiliare meno 6,70% e poi UbiBanca sono i peggiori, Eucedos più 8,70%, Landi Renzo più 8%. Vita, società editoriale, più 4,60, i migliori. Grazie a Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, quali tasse ridurre lo decidiamo noi, non un euro burocrate a Bruxelles, così pochi minuti fa il Premier Matteo Renzi, a margine degli incontri che ha a New York. Compito dell'Unione Europea non è mettere bocca su quali scelte fiscali fa uno Stato, non deve decidere al posto dei singoli governi. Confermo l'eliminazione nella legge di stabilità della tassa sulla prima casa per tutti e per sempre, quindi l'IMU. E poi sulla riforma del Senato, ci interessa meno, non c'è nessun impasse. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, sui temi di Bruxelles. Insomma, l'ha presa bene Renzi. Cosa è successo? Stamattina Bruxelles ha detto in un comunicato: attenzione, l'Italia ha un peso fiscale relativamente alto sul lavoro e ci sarebbe margine per spostare il peso fiscale a imposte meno distorsive come quelle sui consumi, la priorità immobiliare e l'ambiente. Adriana, è Renzi che se la prende troppo o è Bruxelles che la fa un po' fuori dal vaso? Nel senso che uno potrebbe anche dire... No, Bruxelles questa posizione ce l'ha da sempre, non da oggi. Ricordiamoci, all'epoca di Berlusconi diceva esattamente le stesse cose. Secondo, Bruxelles lo diceva anche quando c'era Monti, e lo stesso Monti, facendosene interprete, era quello che lo sosteneva per primo. Cioè, a Bruxelles si ritiene che il peso fiscale vada spostato appunto sulla casa. Allora, il problema è, ha Bruxelles voce in capitolo? Sì, ce l'ha, perché attraverso appunto i poteri che le sono stati delegati con il rafforzamento del patto di stabilità, non può decidere quante tasse si mettono in Italia, questa è una competenza esclusiva dello Stato nazionale, ma può sicuramente dare degli orientamenti e dare degli orientamenti pubblici per invitare i governi a questa o quell'altra scelta di politica fiscale. E d'altra parte l'aveva già fatto non più tardi, se non era un mese fa, credo, no? Alle prime indiscrezioni sulla nostra legge di stabilità aveva detto esattamente le stesse cose. Ma allora, quindi, è vero che già un mese fa disse: noi da sempre preferiamo che spostiate la pressione fiscale, traduco, su IVA e IMU e anche TASI, e alleggeriate IRPEF e IRAP, diciamolo proprio come stanno le cose, le tasse sul lavoro, su chi lo fa il lavoro e chi lo genera il lavoro. Posizione che chi vi parla da sempre sostiene, perché per far ripartire l'economia devi fare investimenti, microinvestimenti, l'edilizia, anche la microedilizia del territorio e alleggerire le tasse sul lavoro e non sul patrimonio. Però è una posizione personale questa. Detto questo, Adriana, perché Renzi se la prende? Perché, insomma, dire non ci faremo dettare la linea da un euro burocrate a Bruxelles, quali tasse... Ma non sono euro burocrati, sono i ministri dell'Eurogruppo. Sono i suoi pari, sono i governi e i primi ministri degli altri paesi, perché Bruxelles esprime la linea europea, non la linea di un euroburocrate. Cioè l'euroburocrate esegue, non esprime linee, non inventa linee, esegue semplicemente le politiche che sono state decise collettivamente e siglate in patti di stabilità, di governance di vario tipo. Vediamo se capisco bene, cioè tu dici, attenzione, non c'è nulla, Bruxelles da sempre dice queste cose e obiettivamente le ha ribadite anche alla luce, mancano due settimane all'approvazione della legge di stabilità. Allora Renzi reagisce così per un motivo interno, in realtà per parlare al paese internamente, alla pancia, io ridurrò le tasse, non mi farò condizionare da Bruxelles, ma non c'è tutta tattica politica, ma non c'è niente. Dopodiché però è chiaro che Bruxelles possa imporre a Renzi di cambiare questa o quella politica fiscale, no. Si può raccomandare, si può diciamo incentivare a fare certe cose, ma non si può dire a uno adesso tu tassi di qui e non tassi di là, questo no. Quindi in un certo senso Renzi gioca su questo equivoco, però il suo è un gollismo che diciamo giustificato fino a un certo punto, nel senso che oramai fa parte di un club, quello dell'euro, e quelle politiche bisogna osservare, questo voglio dire. Tu sai che c'è De Gaulle che si sta rivoltando, certo. dire che Renzi è gollista, insomma, con De Gaulle che aveva tanti limiti e tanti difetti. È un emulo. Quindi dici, sta alzando lo scontro da New York con l'Europa solo per un motivo interno, perché in realtà l'Europa raccomanda solo e non può fare altro. Questo potrebbe essere, sempre a livello tattico, l'ultima domanda che ho per te Adriana, un elemento anche per poi la contrattazione sul margine di flessibilità con Bruxelles? Sì, certamente stanno negoziando in questi giorni sulla legge di stabilità, quindi questa sarà sicuramente una delle carte che saranno in qualche modo spese. Bisognerà poi vedere come sarà la valutazione globale del progetto del governo e quale sarà il giudizio che darà Bruxelles. In questo ambito vedremo che cosa si farà, ma non ci dimentichiamo che anche Berlusconi tolse l'IMU, nonostante Bruxelles fosse contraria, nessuno glielo può proibire. Certo, no, ma infatti non mi sembra questo in discussione, mi sembra che magari faccia più parte del piatto su cui giocare con Bruxelles per avere maggiori margini di flessibilità, come previsto anche dagli accordi, ma poi il margine è importante, quello è la cifra che viene messa, 0,7-0,4 del PIL, certo, fa una bella differenza. E soprattutto le coperture, gli chiederanno, va bene, vuoi togliere l'IMU, con cosa lo copri? E su questo abbiamo avanzato anche noi qualche dubbio, ma vedremo. Intanto grazie Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, ti sento molto combattiva, bene. GR24 e poi andiamo su Volkswagen, Volkswagen, gas auto. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi. Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio, Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella domenica degli italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Focus Economia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Prima di arrivare allo scandalo, al Dieselgate, restiamo sugli scandali di casa nostra per un secondo, perché oggi sono arrivate 4 condanne e 3 assoluzioni per il processo per il crack della vecchia Alitalia, la gestione 2001-2007, quella che poi portò l'Alitalia a fallire, ricordate la bad company, la good company, i capitani coraggiosi, poi nemmeno quello è servito. E poi si è arrivati recentemente alla cessione del 49% a Etihad. Però restiamo su quel processo. Condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione Giancarlo Cimoli, presidente amministratore delegato della compagnia dal maggio 2004 a febbraio 2007, e poi a 6 anni e 6 mesi Pierluigi Ceschia, ex responsabile del settore finanza straordinaria, a 6 anni Gabriele Spazzadeschi, già direttore generale del settore amministrazione e finanza, 5 anni Francesco Mengozzi, che alcuni di voi ricorderanno fu amministratore delegato dal febbraio 2001 al febbraio 2004, tutti accusati di bancarotta, ma a Cimoli viene contestata anche l'accusa di aggiotaggio, 2 episodi in cui avrebbe diffuso notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del valore del titolo all'Italia. Devo dire che hanno assolto invece gli ex funzionari Giancarlo Zeni e Leopoldo Conforti, e anche, perché il fatto non costituisce reato, Gennaro Tocci. La sentenza è di primo grado. Tra l'altro, nel periodo 2004-2007 Alitalia accumulò perdite per 4 miliardi di euro. Cimoli lasciò la compagnia di bandiera incassando una liquidazione di 3 milioni di euro. E faccio notare che se li sommiamo ai 6 milioni e 700 mila euro che prese per lasciare le Ferrovie dello Stato, diciamo pure lì non bene, poi arriva Moretti, beh, insomma fa 9 milioni, 10 milioni quasi di euro. Allora, Gianni Dragoni, pensaci tu, buonasera Gianni. Ciao, buonasera. Alle volte ritornano, è un po' che non parlavamo di Cimoli, ma cosa gli viene contestato? Perché insomma, adesso non mi fate fare l'avvocato di Cimoli, però... il fatto la bancarotta deve essere ben argomentata, nel senso che l'Alitalia andava male, era il periodo in cui perdeva 1 milione di euro al giorno, se non ricordo male, ma quali sono le responsabilità di Cimoli e degli altri manager che ho citato? Sì, l'Alitalia, per la cronaca, andava male, è andata male dopo, continua ad andare male anche oggi, quindi il fatto di andare male di per sé non significa che ci siano delle situazioni, no, da condanna o da reato. In questo caso, infatti, gli stessi giudici, gli stessi PM della Procura di Roma che hanno condotto questa azione, loro sono partiti, sto scorrendo i capi di imputazione di questo processo, che è in primo grado, quindi diciamo il tribunale, ci sarà l'appello, ci potrà essere la Cassazione, quindi la condanna non è definitiva. Sono partiti da un'ipotesi di cattiva gestione, parlano di mala gestio attraverso una serie di atti, però questi poi hanno dovuto, diciamo, indicare quali sarebbero gli atti attraverso i quali sono stati compiuti delle irregolarità. Una delle contestazioni fatte a Cimoli riguarda una consulenza che aveva dato appena arrivato alla società McKinsey per la riorganizzazione dell'Alitalia, per una bolletta, una parcella da quasi 51 milioni di euro. Allora, visti i risultati, i PM dicono: ma questa consulenza è servita, era necessario spendere quei soldi. Un altro punto è stato quello dello scorporo di alcuni rami d'azienda, della manutenzione, attività anche di servizi aeroportuali, messi e tolti dalla società Alitalia, che fu chiamata Alitalia Fly, e messi in una società Alitalia Servizi. Ci fu questa divisione tra attività di volo e altre attività. Secondo i giudici, in questo modo una parte delle perdite effettive che sopportava l'attività di volo, il trasporto aereo, erano nascoste perché stavano dentro questo Alitalia Servizi, che fu rilevata poi da un'altra società pubblica statale, la Fintecna. Poi c'è stato l'acquisto di Volare, che era in una situazione comunque di conti negativi, eccetera. Ecco, questi sono alcuni degli episodi. Poi la gestione del settore cargo, che fanno notare i giudici, penso l'abbiano letto anche sul Sole 24 Ore, perché noi facciamo un'inchiesta una volta su questo, che il settore cargo, che era ridotto a soli 5 aerei quando l'Alitalia, diciamo, è stata poi fallita nel 2008, aveva però 135 piloti. Adesso Cimoli se ne era già andato da qualche anno, quindi troppi piloti rispetto agli aerei. Sì, avevamo fatto un conto, se non ricordo male, erano quasi 25 piloti per aereo, la battuta era cargo perché doveva contenere i piloti, non per altro. Sì. Allora, su questo però, tu ricordavi la consulenza pagata a McKinsey, 50 milioni di euro. A me impressiona, ma lo dico in maniera neutra, i rimborsi chiesti, perché nel chiedere, e avranno avuto tutti gli elementi, ma nel chiedere 355 milioni di euro di rimborsi, solo Cimoli deve restituire 160. Adesso io capisco che ha preso 10 milioni di euro di liquidazione, noi la criticammo in tempi non sospetti, e ci furono anche ire, strali, telefonate e quant'altro, però dove li becca 160 milioni Cimoli, nel senso? Chiaramente il risarcimento a cui sono stati condannati i quattro condannati, più di 350 milioni, di cui, come hai ricordato, 160 milioni li dovrebbe pagare solo Cimoli, sono delle somme che a titolo individuale sembrano enormi, come enorme secondo il PM è stata la mala gestio. Qui noi dovremmo intanto capire quando ci sarà la sentenza, oggi c'è solo il dispositivo, quindi solo i numeri delle condanne e delle assoluzioni, perché qualcuno, come hai detto, è stato anche assolto, capire il perché. Effettivamente sono delle cifre che sembrano sovrumane, cioè andare al di là, oltre, cioè, la capacità, ti dice adesso, che una persona potrebbe, ti dice dove li ho io 160 milioni adesso. Questo no, chiedo, non so, vediamo quando ci saranno le motivazioni, quali, ecco, sono anche le considerazioni, domanda, no? Ecco, cioè, un'ultima domanda quel danno. Siccome riguarda il crack del 2008, la prescrizione per il reato è di 12 anni, se non ricordo male, per sì, 12 cui anni e mezzo circa, la bancarotta aggravata, che è quello il reato più grave tra quelli contestati. Quindi, cioè, per evitare di incorrere il giudizio della Cassazione deve arrivare entro il 2020, no, lo diciamo, sì. Non so chi condurrà questo programma nel 2020, ma insomma lo diciamo per tempo, prego. Sì, naturalmente c'è questo, qui è stata una sentenza di primo grado e questo è una cosa che gli stessi, diciamo, giudici PM sanno che è un po' in bilico, cioè non era facile trovare, diciamo, perché la bancarotta per dissipazione, come è stata chiamata, ha pochi precedenti, pochissimi, e quindi è stato, diciamo, il tribunale addirittura ha dato delle condanne superiori alle richieste dei PM, una cosa estremamente rara. Potrebbe anche capitare che in appello le condanne potrebbero essere confermate, ma potrebbero essere anche eventualmente modificati i capi d'accusa. Se questo accadesse, e quindi sarebbero solo meno gravi, la prescrizione allora potrebbe scattare. Quindi è un processo che nelle fasi successive potrebbe conoscere anche delle alterazioni, insomma dei cambiamenti importanti rispetto al primo grado, che effettivamente anche nelle cifre del risarcimento è, diciamo, imponente, diciamo. Staremo a vedere, intanto adesso aspettiamo anche, come tu ricordavi giustamente, le motivazioni. Grazie a Gianni Dragoni, il traffico. Focus Economia. Riguardo al caso Volkswagen, oggi ci troviamo di fronte a una questione ambientale. In particolare, l'interrogativo che si pone è quanto i produttori di automobili in tutto il mondo sono stati onesti con i propri clienti riguardo al rispetto degli standard imposti a tutela dell'ambiente. È una questione seria. E pertanto noi insistiamo sul fatto che Volkswagen deve chiarire ogni singolo aspetto di questa vicenda, spiegare che cosa è andato storto, in che modo è potuto accadere, in che modo si potrà porre rimedio al danno causato. Rimango fermamente convinto dell'eccellente qualità delle auto tedesche, del fatto che siano all'avanguardia nella riduzione delle emissioni, ma va dipanato ogni minimo dubbio sul fatto che le nostre auto non siano conformi a quanto previsto dalla legislazione ambientale dei diversi paesi nei quali esportiamo i nostri modelli. Dobbiamo evitare in ogni modo che il brand industriale tedesco venga danneggiato da questo scandalo. In quest'ottica, i ministeri competenti e il governo stanno lavorando duramente al fine di contenere i danni per quanto possibile, spiegando che cosa è successo, dicendo la verità e prendendo le misure necessarie. Taking the appropriate measures. siamo partiti tra i primi paesi dicendo che avremmo fatto valutazioni indipendenti. Come sapete questo è un fatto gravissimo, è una truffa ai danni dei cittadini e ai danni anche delle autorità competenti per il controllo, quindi partiremo con i controlli a campione, ho già dato gli ordini per eseguirli il più rapidamente possibile, in maniera che ci sia piena tutela dei consumatori. Poi attendiamo i dati della motorizzazione tedesca e della Volkswagen sul numero di veicoli che hanno montato queste centraline truccate. Allora, nell'ordine avete sentito da un lato il portavoce del capo dello staff della cancelliera Angela Merkel, lui si chiama Peter Altmaier, dicendo attenzione, siamo fiduciosi che risolverà il problema, ma la Germania ha dato un ultimatum il 7 ottobre, altrimenti se non rispetteranno gli standard non potranno più circolare in Germania le macchine coinvolte. Nel giorno in cui si scopre che anche l'Audi ha truccato le emissioni su 2 milioni e 100 mila auto nel mondo, i modelli coinvolti sono A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3, Q5 e la maggior parte sono in Europa, 1 milione e 400 mila veicoli, di cui 600 mila quasi nella sola Germania. E nel giorno in cui abbiamo scoperto che i giudici della Bassa Sassonia hanno aperto un'indagine sull'ex numero 1 della Volkswagen, Winterkorn, e hanno sospeso invece dentro la Volkswagen anche i capi, i responsabili della ricerca e sviluppo di Audi, Porsche e della stessa Volkswagen. Poi Berlino aggiunge attraverso il Ministero dei Trasporti: non eravamo a conoscenza dei trucchi di software. E l'ultima voce che avete sentito è quella del nostro ministro Delrio, che dice attendiamo i dati dalla Germania. Aggiunge: la class action è possibile, ne è già aperta una negli Stati Uniti, un fondo pensione che dice ci avete fatto comprare il titolo Volkswagen che non valeva quel livello, e poi ce ne sono altre 80 di consumatori. Andrea Malan, ormai diciamo sta diventando un appuntamento fisso purtroppo per la Volkswagen. Buonasera Andrea. Buonasera, stavo per dirlo io, purtroppo vabbè, per la Volkswagen. Da Das Auto a Gas Auto, come scrivono gli ascoltatori. Allora, le class action in effetti riguardano non solo gli acquirenti delle auto, ma anche i fondi pensione, sono ancora più delicate, che hanno investito nel titolo e adesso dicono voi avete truccato i dati e noi chiediamo una penale, un risarcimento. Detto questo, preoccupa di più le class action, Andrea, o il fatto che se, cerco di spiegarla così, queste vetture con difficoltà riuscivano ad arrivare a livello Euro 5, infatti le hanno taroccate, com'è possibile che arrivino all'Euro 6? Cioè, vorrei capire adesso al di là che cosa ne è delle strategie di sviluppo, prego. Innanzitutto attenzione, non è che non arrivassero l'Euro 5, nel senso che la frode è stata accertata e rivelata per quanto riguarda gli Stati Uniti e gli standard americani. Per quanto riguarda l'Europa, nei test sui rulli le auto funzionavano e loro dicono, poi questo ovviamente sono indagini in corso eccetera, dicono che il software nella maggior parte dei casi non funziona. Dove non funziona si potrebbe intendere con in Europa, visto che le norme erano meno severe, non serviva. La domanda sull'Euro 6 è certamente giustificata, nel senso che lo standard Euro 6 è più severo, è appena entrato in vigore e quindi sicuramente ci si chiede, la Volkswagen dovrà aver adottato qualche altro sistema affidabile ed efficiente di contenimento delle emissioni per rientrare negli standard Euro 6. Il problema è proprio che a 10 giorni dall'esplosione dello scandalo, ma in realtà a molto di più da quando la Volkswagen stessa ha saputo che gli americani l'avevano scoperta, non si sa ancora molto, cioè non si sa l'elenco delle auto coinvolte esatto, paese per paese, i modelli, gli anni di vendita, quindi parlando di class action prima, non si sa neanche chi e quando e per cosa potrà fare una class action, al di là del discorso degli investitori, cioè gli acquirenti non sanno di fatto nulla. Volkswagen si è impegnata a consegnare entro il 7 ottobre un elenco, non tanto a porre rimedio perché sarebbe materialmente impossibile, ma a consegnare al Ministero un piano preciso con tutti i numeri e i tempi che ritiene di impiegare a sistemare la situazione. Perché a me è impressionato che insomma l'Audi emerge oggi, insomma è una settimana che parliamo di sta cosa. Dunque no, l'Audi, attenzione, l'Audi emerge oggi nel senso che ha fatto un suo comunicato, sì. Era abbastanza ovvio e si era già intuito che quando Volkswagen inizialmente aveva parlato di 11 milioni di vetture, parlava di 11 milioni di vetture dei marchi del gruppo, quindi Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, che poi sono quelli che usano quei motori lì. La Bentley, diciamo, usa altri tipi di motori. Sì. E la Lamborghini anche, ecco, quindi diciamo che era già ricompreso. Infatti gli 11, ci sono state una dichiarazione, mi sembra 2 o 3 giorni fa, 5 milioni e rotti la sola marca Volkswagen, 2 l'Audi, un tot la Seat, la Skoda, insomma ci si arriva a 11, ecco. Certo, tu puoi dire non c'è un grande coordinamento, che è quello, no, che... nel senso che è quello che stavo dicendo, cioè, anche perché vediamo che i vari paesi si muovono, non so, c'è una denuncia di un sindacato spagnolo per frode a Volkswagen in Spagna, c'è il tema delle Seat e addirittura di quanto oggi riportano alcuni giornali, le Seat che equipaggiano hanno vinto la gara per carabinieri e polizia, anche lì ci sono, c'è tutto un, e vediamo arrivare le notizie molto col contagocce, cioè adesso ripercorrendo la vicenda, Andrea, quanto ci ha messo a dimettersi Winterkorn? Troppo, perché con, beh, quello, diciamo che, con quello che si era scoperto già da fine settimana, tu arrivi e invece 3 giorni aspettiamo il CDA, poi sì, anche l'Audi è coinvolta ufficialmente, lo sappiamo oggi, ed è passata una settimana, mi sembra che diciamo che qui il problema di ritardo c'è stato soprattutto prima, cioè che la Volkswagen ha fatto melina quando sapeva già da un anno e mezzo che le autorità americane erano a caccia del problema, quindi quello è stata la cosa più grave. Una volta scoperti e una volta che venerdì scorso, quindi 10 giorni fa, le autorità americane hanno sparato la bordata, i tempi sono stati per alcune cose abbastanza brevi. Credo che tu hai detto 3 giorni per dimettersi. Per carità, Winterkorn avrebbe potuto anche dimettersi subito, però diciamo che in casi di questo tipo, anche di scandali grossi, qualcuno ricordava il caso di qualche banca, adesso non mi ricordo, ci sono casi in cui magari, anzi, sì, l'amministratore è stato tenuto lì. Non è il paradigma migliore, nel senso, quello, no, delle banche, ci sono vantaggi e svantaggi, certo. alcuni investitori anche hanno sostenuto che sarebbe stato meglio tenerlo lì per un mese a pigliarsi, non dico cosa, che sta uscendo dal ventilatore, per poi sostituirlo subito dopo. Tra l'altro, soprattutto tenuto conto che la persona che hanno messo, Matthias Müller, che è un uomo comunque del gruppo, che ha fatto una carriera assolutamente parallela a quella di Winterkorn, sì, non è considerato dagli investitori stranieri il più adatto. Il più adatto. No, un altro messaggio, Volkswagen Das Auto Goal. Vabbè, anche questo non è male. Questo non è male. Anche Gas Auto Goal. Allora, un'ultima domanda che poi non esauriamo adesso, però anche il caro di Fiat oggi, di tutti i titoli automobilistici, cerchiamo di capirci, siamo proprio sul crinale. Però molti mi chiedono, ma non è che questi cali continui nel settore avvengono perché si sa o c'è il timore, insomma, timore conosciuto, che anche altri marchi abbiano fatto lo stesso? Per ora nessuno si è mai permesso di dirlo, per cui bisogna stare anche molto attenti, perché potrebbe essere anche un modo per la Volkswagen per annacquare, diciamo, le sue responsabilità. Però il tema, no, c'è, il mercato sicuramente, parlando con analisti di borsa, sicuramente dicono che il mercato teme altri casi di questo tipo, questo è sicuro. Il mercato poi guarda ai numeri sulle emissioni, eccetera, che sono stati pubblicati da vari istituti in questi giorni, vede che le emissioni reali sono molto superiori a quelle dei test e si chiede, non è che qualcuno ha usato dei trucchetti? Nessuno finora lo ha detto, non c'è, i sospetti che erano vari emessi sono stati subito rapidamente smentiti, ma la borsa dice nel dubbio io vendo. Tra l'altro, come ricordava qualcuno, il settore auto ha avuto fino alla primavera un andamento strepitoso, quindi questa, per chi non avesse venduto prima sulla congiuntura cinese o su altri o su altre difficoltà, è un'ottima scusa, certo, per vendere, quindi per riequilibrare i portafogli. Sì, va detto che questo scandalo colpisce proprio il settore che più si era ripreso in Europa, guardate i dati sulle matricolazioni, e che più stava contribuendo, lo dico senza voler essere menagramo, alla ripresa anche in Italia dei consumi interni. Se si va a vedere la componente consumi, il grosso è stato il ricambio dell'auto, la componente automotive. Nel ringraziare Andrea Malan, giro due battute, perché vedo che questo tema... Allora, a questo punto mi chiede un ascoltatore qual è il software più venduto al mondo, resta ancora Windows o il primato passa a Volkswagen, non lo so, chiedetelo a Enrico Pagliarini nel 2024. E poi un altro mi scrive, per rispettare gli standard Euro 6 la Volkswagen ha dovuto rilasciare una nuova versione del software, e anche questo non è male. Grazie Andrea Malan,